differenza sottile tra il fare e il dire. Sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi morire. Ho tracciato un confine, sono solo linee. E camminato mille strade per non farmi scoprire. In questo piccolo spazio, in una piazza così grande, la mia vita mi sorprende, mi riempie di domande. E tu non hai risposte, ma sorridi al momento giusto da farmi incazzare e poi da niente ridere di gusto. Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarò senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. Meglio qualcosa per cui soffrire che niente per cui vivere. Meglio qualcosa che non puoi capire che qualcosa che puoi solo dire. Dirò che amarti è facile e impossibile. La tua vita è un'area inagibile. Io posso entrare solamente però se tu non ti dai limiti e smetti di decidere al posto di lasciarti andare. Dirmi solo di no, se dirmi solo di no. Se io non mi do limiti e non ho mai deciso di chiudere una porta con te. Perché so che cosa e so che tu. Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Fiderò perché non è una promessa e nessuno dei due ha mai detto lo giuro. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente.